Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City, andiamo a Stoccolma questa sera per incontrare una startup, Mind Music Lab, che ambisce a cambiare il modo di fare musica con un impatto che per certi versi potrebbe essere simile a quello avuto negli anni 60 dall'invenzione intanto della chitarra elettrica e più in generale l'effetto che c'è stato con la diffusione degli strumenti amplificati che per esempio hanno permesso di raggiungere un pubblico molto più vasto ai concerti. Per parlarci di Mind Music Lab c'è con noi in linea il fondatore italiano Michele Benincaso. Buonasera, benvenuto. Ciao Maurizio, buonasera. Allora, tu arrivi dalla scuola di liuteria di Cremona, hai fatto il liutaio per circa 10 anni prima di dedicarti a questa startup che nasce fondamentalmente da una constatazione, cioè il fatto che tutte queste tecnologie di rete, in particolare l'Internet of Things, che hanno avuto delle ricadute evidenti su moltissime professioni, molte persone lavorano in modo diverso da quando esistono gli smartphone per cominciare e tutte le altre tecnologie cosiddette dell'Internet of Things, e queste tecnologie però non hanno avuto ricadute significative sul modo dei musicisti di fare musica e di relazionarsi con il pubblico nel corso, per esempio, di una performance musicale. Ecco, e allora qual è stata la vostra idea? Allora, sì, il punto di partenza è stato proprio quello. Comunque viviamo in un mondo connesso dove le nuove tecnologie, oltre all'Internet of Things, abbiamo realtà virtuale, realtà aumentata, sia musicisti che audience che sono sempre più alla ricerca di più interazione durante le performance live e le performance musicali in generale. Però ci siamo accorti che alla fine il musicista oggi è sul palco e usa lo stesso cavo che usava negli anni 50. Quindi praticamente c'è 50.000 pedalini, queste sono cose che tutti i chitarristi sanno bene, poi deve entrare nel preamplificatore poi, e così via, no? Esatto, fino ad arrivare, ovviamente si può arrivare anche al computer, però diciamo che da arrivare dallo strumento alla connettività, all'interazione, c'è una lunga strada da fare per il musicista. Ci sono anche un sacco di ammenicoli da mettere in mezzo fondamentalmente, complicati da gestire, con problemi di compatibilità gli uni con gli altri e così via. E quindi? E quindi abbiamo deciso di risolvere questo problema. Quindi il primo prodotto a cui abbiamo iniziato a lavorare è stata la Sensus, che è la prima smart guitar al mondo, e da lì abbiamo fatto il rilascio del prototipo l'anno scorso. Ecco, descriviamola un po' questa chitarra. Intanto, vabbè, si presenta come una chitarra elettrica, diciamo, con dei tastini touch qua e là, un po', no? Tipo quelli che ci sono appunto oggi su uno smartphone, per capirsi, oltre alle normali corde. E che cosa permette di fare? Allora, esatto, il punto è che abbiamo voluto ottenere innanzitutto l'esperienza del chitarrista, tenerla esattamente la stessa, quindi la chitarra è una chitarra a tutti gli aspetti, anzi, una bella chitarra. Poi abbiamo voluto usare la tecnologia per dare delle potenzialità che ad oggi in uno strumento come la chitarra non ci sono. E quindi, prima di tutto, a livello di interfaccia, oltre ad avere appunto le corde come la chitarra, abbiamo diversi sensori che sono sensori di pressione, prossimità, addirittura la chitarra può leggere la posizione dell'oggetto nello spazio, quindi in base a come muoviamo la chitarra possiamo assegnare per esempio una funzione come un cambiamento di suono. Cioè questa chitarra diventa un po' come gli smartphone, per cui uno gli mette su un'app e quello smartphone può fare delle cose che non poteva fare prima. Esatto. Per esempio, nel momento in cui si vuole usare la Sensus, basta accenderla e tutto quello che è la parte dei suoni, sintetizzatori, drum machine, tutta la parte, diciamo, sia di effettistica che di suoni è già inclusa nello strumento. Quindi il musicista non deve stare lì a trovare soluzioni per connettersi a vari altri device, altri oggetti. Ecco, e poi soprattutto la chitarra nasce per essere connessa a internet. Questo apre una possibilità affascinantissima, quella di suonare con qualcun altro che si trovi da un'altra parte. Esatto, da musicista, come tutti possiamo immaginare, il fatto di poter suonare con qualcuno a distanza è stato il sogno dall'avvento di internet, insomma. Per avere questa esperienza di suonare a distanza c'è bisogno di una bassissima latenza, ossia tutto il processing, tutta la parte dell'elaborazione digitale deve essere fatta in un in brevissimo tempo. Cioè, perché per poter suonare con qualcun altro bisogna che sia conservata la sincronia. Bastano pochi centesimi di secondo di ritardo e non si riesce più a suonare con qualcun altro, no? Non si riesce più ad andare a tempo, per esempio. Esatto, esatto, ma parliamo di millisecondi. Sì, sì, sì. Proprio di... e quindi quello che noi abbiamo rispetto agli strumenti tradizionali, strumenti elettronici tradizionali, se prendiamo qualsiasi tastiera, batteria elettronica, si riesce ad avere questa bassa latenza, però il problema è metterli in un contesto di connettività, nel senso che questi strumenti, se oggi qualsiasi strumento digitale lo accendiamo, è lì, non abbiamo possibilità di connetterci a internet e di mandare questo segnale a bassa latenza. Quindi il nostro lavoro è stato appunto di creare questa piattaforma che gira nella chitarra, che potesse gestire questo audio a bassissima latenza, con alte prestazioni audio, e in più tutta la connettività, quindi preparare il prodotto pronto per essere mandato in rete in pochissimo tempo. Quindi possibilità di suonare con persone che si trovano altrove, possibilità di eseguire delle performance in tempo reale, di avere un tipo diverso magari anche di interazione con il pubblico. Poi questi strumenti spesso quando vengono inventati è difficile immaginare esattamente come verranno utilizzate. Insomma, quando ci sono delle nuove possibilità espressive, come dire, starà ai musicisti, no? Trovare il modo di utilizzarle bene in modo creativo. E a proposito, insomma, questa chitarra consente di lavorare non solo sui suoni. No, appunto, il suono ovviamente è il core principale, certo, dello strumento, come tutti gli strumenti musicali, però in modo nativo la chitarra può connettersi via rete a qualsiasi altro device, quindi in tempo reale il musicista può, oltre con i sensori e il suo modo di suonare, oltre a controllare il suono, può controllare luci sul palco, scenari di realtà virtuale o realtà aumentata, interagire con il pubblico con l'uso dei smartphone, smartwatch e altre tipologie di device connessi. Praticamente noi vediamo che c'è in questo grosso contenitore di device connessi, che è questo Internet of Things, appunto l'internet delle cose, lo strumento musicale crediamo sarà parte integrante di questo ecosistema. E comunque stai parlando anche di possibilità, diciamo, espressive ulteriori, no? Immaginare che una performance musicale possa tirarsi dietro anche appunto il controllo delle luci piuttosto che cose di questo genere, che arricchiscono evidentemente il ventaglio espressivo dell'artista. Ecco, una domanda: c'è questa Smart Guitar che in questo momento, diciamo, è l'unico prodotto, ma in realtà non è un prodotto in vendita in questo momento, voi non state vendendo, state ancora sviluppando tutto questo insieme di idee. Volevo capire però se tutta questa piattaforma che avete messo in piedi nasce solo per questa chitarra o ha una valenza più generale. Allora, al momento noi abbiamo appunto la Sensus, che è il prototipo della nostra Smart Guitar. Guarda, abbiamo una grande news che arriverà a gennaio, quindi non posso dirti tanto, però quello che posso dirti è che certo tutta la tecnologia che abbiamo sviluppato è dedicata a tutti gli strumenti musicali. È del tutto generale, no? Esatto. C'è anche una certa attesa per questo vostro annuncio, perché per intanto sembra che il mondo della musica abbia reagito, no, a questa novità con molto interesse. Siete stati, insomma, citati all'interno di molte manifestazioni di peso. Sì, l'anno scorso siamo stati premiati, abbiamo il primo premio al Midem di Cannes, che è un evento nell'industria musicale, uno dei più grossi a livello mondiale. Poi siamo stati anche premiati al Sonar di Barcellona e a San Francisco Music Tech Summit, che è appunto nella zona di San Francisco, Los Angeles, nella Silicon Valley, è appunto l'evento musicale più importante al mondo. Va bene, grazie. Grazie Michele Benincaso. A presto. È tutto anche per questa sera, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.